si fermano stanchi e riposano un poco in compagnia di qualche straniero. E chissà dove ti addormenterai stasera, e chissà come ascolterai questa canzone. Thank you.